Radio 24 Reportage. Turisti 2050. Cara vecchia Europa, non ti conosco più. Di Silvia Bernardi. Over 50, benestanti ed extraeuropei. È la carta d'identità dei turisti del futuro quando viaggerà una persona su due. Nel 2050 i viaggiatori saranno così, adulti con un solido conto in banca e un passaporto non europeo. A dirlo un nuovissimo studio dell'Università di Stenden, in Olanda, dove i ricercatori sono specializzati nella pianificazione degli scenari futuri dei flussi turistici. La buona notizia è che nei prossimi 40 anni il turismo in Europa continuerà a crescere di circa l'1,8% annuo, che tradotto in cifre significa che nel 2050 gli arrivi nel vecchio continente raggiungeranno il miliardo. La cattiva notizia è nella quota di mercato dei turisti europei, che finirà per dimezzarsi passando dal 50% attuale al 17%. Questo vuol dire che se oggi l'Europa è leader incontrastata nel turismo, saranno l'Asia e il Pacifico a prendere la leadership nel 2050. Con 560 milioni di persone che hanno attraversato le frontiere dell'Unione Europea per fare una vacanza, l'Europa è ancora la prima destinazione turistica mondiale, ma non sarà così per sempre. Per mantenere la leadership bisognerà lottare parecchio perché i concorrenti sono molto preparati. I paesi europei dovranno non solo capire che cosa vuole il consumatore, ma dovranno fare molto di più, come conoscere le componenti sociologiche, culturali e politiche che possono influenzare nel futuro il turismo e il lavoro di chi lo programma. Per un'impresa turistica a prova di futuro è dunque indispensabile scannerizzare tutto l'ambiente esterno in cerca di cambiamenti e passare dalle previsioni ai veri e propri scenari che non replicano i meccanismi del passato, ma al contrario traggono dai possibili futuri la capacità di modificare il presente. Well, in fact, you see that despite the crisis, tourism is still growing. In effetti si nota che nonostante la crisi il turismo è ancora in crescita ogni anno, anche l'anno scorso, e di fatto i turisti continuano a prenotare le loro vacanze e a risparmiare. Ad esempio, non comprano mobili o elettrodomestici per la cucina, ma mettono da parte i soldi per poter andare in vacanza. Inoltre, le abitudini sono leggermente cambiate, perché ora le persone prenotano più tardi. Tradizionalmente le vacanze si prenotavano in gennaio o febbraio, ma ora vi è una leggera flessione delle prenotazioni in questi mesi. Per il 50% delle persone intervistate dal mio centro di ricerca dell'Università di Stenden, ad esempio, la ragione principale è la speranza di trovare un'offerta migliore. Oggi si notano due tendenze di sviluppo. Da un lato il business del turismo è diventato più competitivo e dall'altro i diversi operatori del turismo cercano di collaborare per poter proporre al cliente un'offerta turistica di alta qualità a basso costo. In sintesi, due sono i filoni principali sui quali si sta incanalando lo sviluppo futuro del turismo. Il mercato del last minute sta gradualmente scomparendo e al contempo, a causa dell'utilizzo massiccio delle prenotazioni fai da te online, si ricorre sempre meno alle agenzie di viaggi, che quindi, per rimanere competitive sul mercato, devono trovare nuovi modelli di sviluppo. Albert Postma è docente all'Università di Stenden, tra i massimi esperti di scenari futuri di turismo. I suoi studi dicono che il turismo sarà sempre meno un lusso e diventerà una vera e propria esigenza. Il cambiamento dei prossimi anni sarà influenzato soprattutto dalla crescita delle capacità di spesa delle classi medie dei paesi emergenti, BRICS in particolare, che accresceranno le loro presenze come turisti del 20% nei prossimi 30 anni, andando a influenzare molto l'offerta che noi diamo. Basterà l'inglese nel menù dei ristoranti o alla reception degli alberghi o sarà meglio introdurre quanto prima il cinese? Quanti sono gli alberghi che hanno introdotto nel menù la colazione orientale? Sono due domande molto semplici, ma che possono già condizionare in modo deciso il business turistico del futuro. Come si stanno preparando gli operatori? Alessandro Rosso, presidente di Alessandro Rosso Group, dice così. Questo tipo di turismo che diciamo ci avvantaggerà rispetto al resto del mondo, in questo momento è in crescita, ma cresce ovviamente coi suoi tempi. Il turismo precedente che ci aveva favorito, che era quello americano dopo la guerra, in un certo senso si è ridotto e ha esaurito tutta la sua corsa. Questo ce lo dimostra un fatto. Prima degli americani, in Italia, negli alberghi si prendeva il caffè, il cappuccino e la brioche. Poi, come vedete anche bene oggi, sono arrivati i buffet, ma soprattutto sono arrivate le uova fritte, il cornflakes e tutta un'altra serie di ingredienti che sono richiesti dai turisti americani. Questo vuol dire che il turismo colonizza, cioè ci si trasforma per accogliere al meglio il cliente finale. Nel caso dell'America ci ha resi diciamo ricchi per molti anni, abbiamo avuto un successo incredibile in città come Firenze, come Venezia, come Napoli, come Roma, un po' meno Milano. Diciamo che Milano è rimasta rispetto agli americani un po' vista come una città di business, mentre invece questo nuovo turismo, ad esempio degli orientali e dei cinesi, vede Milano come la città del fashion e del cibo. E quindi, nonostante Milano non sia ancora la prima città scelta dagli orientali, perché rimane sempre comunque Roma e Venezia, Milano si sta avvicinando a larghi passi. In quest'ottica l'Expo sarà di grande aiuto. L'Expo che si sta per svolgere a Milano sarà un grandissimo appuntamento di nuovo stile, di nuova tipologia. Un appuntamento che io considero un appuntamento come un happening, no? Dove tutto il mondo, in qualche modo, al di là che possa essere interessato all'evento in sé o meno, vorrà esserci, perché qui avverranno tutte le cose in quei sei mesi. Le spinte che causeranno il cambiamento nel turismo dipenderanno in particolare da tre elementi: il cambiamento nella distribuzione della ricchezza nel mondo, la disponibilità delle risorse, non solo petrolio, ma anche acqua, cibo, altre fonti di energia, e la tecnologia, che influenzerà massimamente la fruizione dell'esperienza turistica. Basti pensare a come già oggi possiamo utilizzare la rete per conoscere in anticipo città o alberghi e ristoranti, ancora prima di partire. Il variare dei tre elementi porterà dunque a diverse decisioni sui viaggi delle persone. Forse in futuro daremo per scontati i collegamenti wifi in albergo, ma se il cambiamento climatico renderà più aride alcune località e porterà a un razionamento delle risorse idriche, probabilmente ci troveremo a dover fare docce temporizzate. Se ci sarà una riduzione generalizzata dei salari e delle capacità di spesa, è probabile che si viaggerà sempre più in treno, e questa è già la tendenza, che si confermerà se contemporaneamente miglioreranno e saranno sempre più comode e veloci le linee ferroviarie mondiali. È destinata poi a cambiare anche l'accoglienza delle città, poiché sempre di più crescerà la pressione del turismo e le relative conseguenze sulla vita quotidiana dei residenti. Ancora, dovremo fare i conti con Facebook, Google e Amazon una volta che prenderanno il sopravvento sul mercato turistico, e con quanto questi riusciranno a influenzarci tramite filtri basati sulla mole di informazioni che hanno a disposizione su di noi, e indirizzare così le nostre scelte. Per il commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria, Ferdinando Nelli Feroci, l'Europa deve sfruttare il ricco patrimonio culturale di cui dispone in modo intelligente, facendo uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, migliorando le competenze, investendo nei trasporti sostenibili e accessibili e promuovendo in tutto il mondo la cultura e il turismo europei. Competitività, accesso alle professionalità, accesso al credito, uso delle tecnologie di punta, in particolare del digitale, sono un po' questi gli assi su cui si dovrà orientare il lavoro in comune, oltre a quello che naturalmente faranno i singoli governi per rafforzare l'offerta turistica nazionale. Che cosa deve fare allora l'Europa per non farsi scalzare dal podio delle mete più gettonate? Non solo seguire i grandi trend, ma anche avere la capacità creativa, previsionale e analitica di immaginare imprevisti e sorprese che potrebbero accadere in futuro, influenzando i cambiamenti nel mercato turistico. E c'è una domanda chiave che si deve porre chi vuole anticipare le prossime tendenze in campo turistico, ed è: che cosa succederebbe se? Piccole e medie imprese del settore, istituzioni, ricercatori dovranno dunque non solo limitarsi all'applicazione statica e meccanica dei trend, ma si dovranno spingere oltre con la creazione di diverse possibilità che da essi nascono. Dovranno tenere in considerazione anche elementi non facilmente prevedibili per saper reagire prontamente se si dovessero verificare. Insomma, cultura, cibo e accoglienza da soli non basteranno più. La partita del futuro si gioca con altre carte, molto meno tangibili, ma decisamente più sofisticate, dove a vincere non sarà più il migliore, ma quello più bravo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.